Euroreportage. Verso le elezioni europee, anche Maastricht diventa euroscettica. Di Michele Pignatelli. Chissà quanti se lo ricordano, ma era il 7 febbraio 1992 e queste note e questo applauso sancivano la firma del Trattato Istitutivo dell'Unione Europea, erede della CE e futura Eurolandia. Oggi l'aria che si respira è diversa, anche a Maastricht, antico insediamento situato nel lembo più meridionale dell'Olanda, in una lingua di terra tra Belgio e Germania. La città simbolo dell'integrazione europea è infatti anche la capitale del Limburgo, una delle province più euroscettiche del paese, dove spopola il PVV, il Partito della Libertà di Geert Wilders. I sondaggi gli assegnano il 16-17% dei voti, potrebbe anche essere il partito più votato. E al leader platinato, già noto alle cronache per le sue crociate anti-Islam che ora lo costringono a vivere sotto scorta, non sembra aver fatto perdere troppo appeal neppure l'ultima contestata presa di posizione contro gli immigrati marocchini. In questa città e in questo paese volete più o meno marocchini? Ha chiesto ai suoi sostenitori durante un comizio all'Aia e al grido della folla ha risposto con un sinistro «ce ne occuperemo». Le sue argomentazioni contro il parassitismo dell'Europa e la criminalità impunita continuano d'altra parte a far breccia. Basta fare un giro al mercato di Maastricht per rendersene conto. Nick, 50 anni, che gestisce una bancarella di lingerie, ne è l'espressione più spontanea. Penso che l'Europa sia diventata troppo grande. Ci sono troppi paesi deboli che sono diventati un peso per quelli più grandi. Quanto a Wilders, è un po' troppo radicale, ma alla fine usa le persone per dire cose che anch'io insegno ai miei figli. Cioè che il crimine va punito e non premiato. Sì, gli darei il mio voto per dire che qualcosa deve cambiare. Toni meno drastici, ma non troppo diversi, per ciò che concerne l'euro, da Peter, 29 anni. Da un certo punto di vista è una cosa buona essere parte della zona euro, dice, avere una moneta unica. Dall'altro ci sono paesi come l'Italia, la Spagna, dai quali si finisce per dipendere. L'antieuropeismo in realtà è solo l'ultimo cavallo di battaglia di Wilders e del Partito della Libertà, nato e cresciuto grazie ad altri totem del populismo. La battaglia contro l'Islam, alla cui ideologia integralista Wilders ha dedicato anche un documentario, Fitna, la crociata contro gli eccessi dell'austerity, la difesa dei valori tradizionali. Chris Alberts, studioso di comunicazione politica, è l'autore del libro Dietro il PVV, realizzato attraverso interviste ai sostenitori del Partito della Libertà. Secondo lui sono tre le ragioni del successo di Wilders. Reason one is the way Dutch politics functions. La prima ragione è il modo in cui funziona la politica olandese e come la gente la percepisce. La seconda, un termine olandese che si potrebbe tradurre con norme e valori. E la terza è quello che chiamano gli stranieri, la gente che viene da fuori. La politica è oscura per molte persone. Non è chiaro cosa stia accadendo, chi prende le decisioni, come si possono influenzare i politici a diversi livelli, qui o in Europa. E il PVV fa questa promessa. Noi, assicura, siamo chiari su quello che vogliamo e su ciò che faremo. La seconda questione, norme e valori, è un argomento molto forte, soprattutto nel sud, Limburgo e Brabante. Non ci si prende più cura gli uni degli altri. C'è troppa criminalità, troppe frodi, disonestà, indecenza. Non si collabora più per risolvere i problemi di un quartiere. Non ci si occupa più dei propri bambini. Erano i temi dei cristiano-democratici, riassumibili nel fatto che la cultura dell'Olanda non è più quella di una volta. Il terzo punto, forse il più importante, è la questione stranieri. Tutti i problemi associati a chi non è di pelle bianca e viene da fuori. Criminalità, integrazione, immigrazione. Su queste basi si è innestata la più recente campagna anti-UE e anti-euro, che tra l'altro trova terreno fertile nell'insofferenza per una politica ritenuta troppo distante o nelle preoccupazioni legate alle ondate migratorie. Così anche l'Olanda, membro fondatore della Comunità Europea, ha smesso di essere uno dei suoi principali sostenitori, come spiega Patrick Baismans, direttore del programma di laurea in studi europei dell'Università di Maastricht. È cambiato parecchio nella politica olandese con l'ascesa di questi movimenti populisti. Pim Fortuyn nel 2002 e poi Wilders, capaci di cogliere tra gli olandesi sentimenti diffusi che nessun altro aveva saputo cogliere. D'altro canto, più o meno nello stesso periodo ci sono stati negoziati sulla Costituzione europea, l'allargamento, e la gente non era felice, non si è sentita coinvolta, soprattutto dall'allargamento. 10 paesi tutti in una volta, alcuni più sviluppati, altri meno. L'Unione Europea è diventata il mostro burocratico. Fa un certo effetto parlare del fronte del no all'Europa proprio a Maastricht, nella sua università che anche grazie alla fama e all'impulso che la città ha ricevuto dal trattato si è sviluppata sempre più, accentuando la sua vocazione internazionale e diventando la sesta nel ranking mondiale degli atenei con meno di 50 anni. Oppure a Plein 1992, la piazza che ha incise sulla pietra una data, appunto il 1992, e un simbolo, quello dell'euro, che ne fanno un vero e proprio omaggio urbanistico al trattato. E d'altra parte l'intelligenza cittadina rifiuta la patente di città euroscettica, come rivendica con orgoglio Jean-Brain Zeels, account manager del municipio di Maastricht, che cura tra l'altro i rapporti con le istituzioni internazionali. Io sono nato e vissuto qui e trovo molto interessante il fatto che camminando per le vie di Maastricht si senta parlare in italiano, inglese, tedesco, francese, tutte le lingue. Credo che questo sia il futuro, perché internet, la possibilità di viaggiare e acquisire informazioni, portano all'apertura verso il mondo e verso le altre nazionalità, molto di più rispetto al passato. Brain Zeels non nega il disagio crescente che si avverte nei confronti dell'Europa e dell'euro, anche se lo colloca più nella provincia del Limburgo che nel capoluogo, e lo spiega con l'incapacità di Bruxelles di spiegare i vantaggi concreti che al cittadino possono arrivare dall'Unione. Ai politici europei do la colpa di non aver saputo spiegare all'uomo della strada perché l'Europa per lui è una cosa buona. Una città di confine come Maastricht, per esempio, avrebbe grossi problemi se non ci fossero l'euro o il libero scambio. Prima ero abituato ad avere 3 diverse valute nel mio portafoglio, solo per viaggiare nella mia regione. L'euro ha semplificato le cose. È un concetto piuttosto semplice, ma abbastanza efficace. Eppure, in tempi in cui i paesi europei hanno il problema dell'invecchiamento della popolazione e delle poche nascite, presto o tardi ci si dovrà confrontare con la mancanza di manodopera. Ebbene, una cosa che si dovrebbe spiegare all'uomo della strada è che c'è bisogno di immigrati dalla Polonia, dalla Bulgaria, dalla Romania. Sulla crescita del sentimento anti-europeo e anti-euro ha pesato naturalmente la crisi economica, che non ha risparmiato neppure la ricca Olanda, un tempo fedele guardiana del rigore a fianco della Germania e poi costretta a sua volta a pesanti manovre per risanare i conti. I partiti populisti come il PVV ne hanno approfittato, sfruttando la paura del futuro, come sottolinea Frank Van Buren, presidente dell'Associazione Industriale di Maastricht. Secondo lui però vanno fronteggiati smontando le loro argomentazioni e i loro slogan intellettualmente fragili, come quello recente dei vantaggi per l'Olanda di un'uscita dall'euro, ipotizzata dal think tank Capital Economics in un report commissionato proprio dal PVV di Wilders. Van Buren lo liquida con una battuta. The report is of no level. Lo studio, dice, non ha nessun valore scientifico, non vale nulla. Se mio figlio lo avesse scritto come tesi di laurea, lo prenderei a calci nel sedere. L'uscita dall'euro dell'Olanda pare in effetti uno scenario improbabile. Quello che però si può prevedere è che alle prossime elezioni per il Parlamento europeo, gli olandesi voteranno il 22 maggio, si registrerà una netta avanzata del fronte del no all'Europa. Il PVV di Wilders, il Front National di Marine Le Pen in Francia, gli austriaci dell'FPÖ. Questi partiti e altri, tra cui la Lega Nord italiana, hanno formato un cartello elettorale in vista del voto, tralasciando le reciproche differenze per riuscire a formare un gruppo autonomo al Parlamento europeo. Serviranno almeno 25 deputati eletti in 7 paesi. Quel che sembra certo, come ricorda ancora il professor Buysmans, è che il cammino di integrazione dell'Europa che proprio a Maastricht aveva segnato un'accelerazione epocale va incontro a un inevitabile rallentamento. Credo che l'Europa riuscirà a sopravvivere. Da quel che vediamo nei sondaggi, ci sono ancora paesi che sostengono la UE, anche se, allo stesso tempo, si è diffuso un certo livello di insofferenza, di critica. Mi aspetto perciò che il progresso di integrazione rallenti, che i processi politici rallentino, che su alcune questioni su cui era più facile accordarsi in passato diventerà più complicato trovare un'intesa. Il Parlamento in definitiva sarà più diviso. Davanti al municipio di Maastricht, intanto, sventola la bandiera europea, almeno per ora. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.